Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci, siamo pronti. Buona domenica a tutti da Gegè Telesforo, qui dal Groovemaster Studio per il soundcheck di Radio 24, appuntamento numero 181. Buona domenica e buon pomeriggio anche al nostro Francesco Tromba, pieno di carte oggi perché siamo pronti per dare gli appuntamenti della prossima settimana. Tantissimi concerti in Italia e in giro per il mondo. E anch'io sto preparando la borsa, mio caro Francesco, perché ogni tanto mi tocca andare in giro a fare musica. Eh sì, ogni tanto suoni anche tu. Sì, è quello che faccio nella vita per sostenere la mia famiglia. E tra l'altro il prossimo appuntamento è proprio fra qualche giorno a Salerno, per il Conservatorio di Salerno. C'è questo festival organizzato al Teatro Augusteo e quindi il 29 sarò a Salerno con la mia band per fare musica lì per il Conservatorio. Sì, e invece diciamo questo festival ha anche un risvolto internazionale perché aprirà il 27 James Brand Don Lewis, un grandissimo sassofonista. Sì, della nuova generazione, è vero. E invece il giorno successivo, il 28, ci sarà il trio di Franco D'Andrea. Infatti io spero proprio di arrivare a Salerno il 28 per vedere il trio di Franco D'Andrea, che mi fa impazzire. Allora, io direi di andare però, di passare subito ai fatti, alla musica, perché ci sono anche delle nuove pubblicazioni che vorrei presentare qui al Soundcheck. E ce n'è una in particolare che mi ha molto colpito, che ha come protagonista il trombettista tedesco Till Bronner. Bel ragazzo, potremmo definirlo il Fabrizio Bosso tedesco? Sì, forse un pochettino più vecchio, no? Qualche anno. Forse di qualche anno, sì. Insomma, però bel ragazzo, anche lui, ottimo strumentista, bellissimo suono con la tromba, che dopo aver fatto album più vicini al mondo del jazz e al funk, che cosa ha fatto in questa nuova occasione per la Universal? Ha fatto un disco dedicato alle colonne sonore. Un po', c'è un termine tecnico per definire questo tipo di operazione, però non mi sembra molto radiofonico come termine. Come si dice? Direi, lo vorrei tradurre con una furbata, ecco, una furbata tipica, una furbata contemporanea. Forse più che seguire le orme dei trombettisti di oggi, da Roy Hargrove a Nicholas Payton, che continuano a spingere l'acceleratore sulla creatività, si è avvicinato un po' più al mondo morbido di Chris Botti. Magari era un periodo di transizione, non aveva tanta ispirazione. Tu dici, no, mi sa che invece proprio quando hai accordi con una multinazionale comunque devi strizzare sempre l'occhio al mercato. E così ha fatto Till Bronner, album nuovo, si intitola The Movie Album, temi portanti di colonne sonore di film altrettanto famosi, recuperate per il suo strumento e per un grande organico da big band. Naturalmente il disco suona molto bene, molto ben realizzato, così come ben realizzata questa versione di Happy di Pharrell Williams, brano che ha portato Pharrell Williams all'apice delle classifiche discografiche. Probabilmente proprio per questa versione strumentale anche Till Bronner sarà aiutato nella vendita e nella commercializzazione di questo album. La partecipazione di Everett Arp al sax tenore, questa è Happy nella versione strumentale di Till Bronner da The Movie Album, qui al Soundcheck di Radio 24. sì, che ne pensi? Niente male, questa versione di Happy per la tromba di Till Bronner, il sax di Everett Harp qui al Soundcheck di Radio 24. Devo dire, una grandissima furbata. Una grandissima furbata, ma poi, insomma, all'interno dell'album, The Movie Album di Till Bronner, nuovissimo, ci sono altre star che partecipano a questa produzione, come Gregory Porter, che fra pochissimo ascolteremo in questa versione di Stand By Me, brano scritto da Ben E. King, sempre per la tromba di Till Bronner. Ma ci sono altri concerti in arrivo importanti nel nostro paese. Che cosa possiamo andare a vedere, Francesco? Ad esempio c'è Brad Mehldau. Oh mamma mia! Il 29 al Time Zones di Bari, e invece il 31 sarà a Salerno. Per ma che cosa giorno, fa? È solo piano, in trio, con che formazione? Piano solo. Piano, essere. Che meraviglia! Brad Mehldau a Bari e a Salerno. E a Salerno, al Teatro Verdi. Da non perdere. Che altro possiamo seguire? Ci sarà anche Gilberto Gil a cielo aperto al Cesena, e invece l'1 di novembre sarà a Trieste al Teatro Rossetti. E continuando, diciamo, sul jazz, il 27 alla Scuola Holden di Torino ci sarà Bill Frisell. Eccolo. E invece avevamo già annunciato ieri, appunto, il Bologna Jazz Festival, ma ci sarà anche Stanley Clark. Eccolo qui. A Milano. Allora preparo il disco intanto, Sì, il 30 e il 31 al Blue Note di Milano. Bene. Con tutta la band? Sì, con il suo... la band è forte, sì. Band è forte. Allora, torniamo a Till Bronner, dicevamo, eccolo qui con Gregory Porter, Stand By Me al Soundcheck. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Soundcheck. Il suono della musica. Sì, gli artisti vanno a recuperare le melodie tratte dalle colonne sonore dei film, e dopo Till Bronner, che ci ha fatto ascoltare la sua versione strumentale di Happy e di Stand By Me, anche la vocalist svedese Rigmor Gustafsson torna al Soundcheck con l'album When You Make Me Smile, con questo brano che avrete riconosciuto, Nobody Does It Better, brano scritto da Carly Simon e brano poi utilizzato per la colonna sonora del film La Spia Che Mi Amava, un classico di James Bond 007, lo ricordi? Sinceramente no, non sinceramente sono... perché sei troppo giovane, dai, però il brano è carino, fatto molto bene da Rigmor Gustafsson qui al Soundcheck. L'album, ancora una volta, lo vogliamo raccomandare perché è molto ben realizzato, molto piacevole all'ascolto. Allora, altri concerti, che cosa abbiamo? Sì, diamo un tocco femminile anche. Oh, diamo un tocco femminile. L'1 novembre ci sarà sempre al Blue Note di Milano Diane Reeves. Benissimo. Invece arriva in Italia anche Anastasia, che il 27 sarà al Fabbrica Milano, il 29 all'Auditorium Parco della Musica di Roma, il 30 a Firenze al Lobby Hall e l'1 novembre al Gran Teatro Geox di Padova. Hai capito che bella tournée, ma sono tutti in Italia in questo momento. Sì, è una un periodo, forse il periodo migliore per i concerti live. Sì, intanto con i due jazz festival importanti, quello di Bologna e poi il Roma Jazz Festival che inizia fra un paio di settimane, mi sembra. Sì, metà novembre inizierà. Poi ci sarà anche Cristina Donà il 31 al Medimex di Bari. Sì, io la voglio incontrare, Cristina, perché ha fatto un bel disco, Un disco interessante, appena disco uscito, molto interessante, appena uscito, sì. Magari lo mettiamo no, anche no, magari la invitiamo, cioè, anche se lei poi di base sta a Milano e sta in tournée, quindi sarà difficile, però insomma in qualche però modo da Roma passerà, cerchiamo di contattare Cristina Donà, la salutiamo e le facciamo i complimenti. Altre cose? Sì, consiglio anche Baloci, che è un cantante hip hop R&B, diciamo, belga, con origini africane, che suonerà il 30 alla Pelanda a Roma e l'1 all'Auditorium Flog a Firenze. E poi? E poi ci possiamo fermare con i concerti in Italia, poi passiamo all'estero. Ah, mi sono dimenticato di Marianne Faithfull. Una dimenticanza. Ce la fa ancora? Sì, sì, a quanto pare. Sta bene in salute, dai. Fa due date, il 27 all'Auditorium di Milano, l'Auditorium della Fondazione Cariplo, e il 28 al Lucca Winter Festival. Questi concerti che vi vengono segnalati per squilli di tromba dal nostro Francesco Tromba qui al Soundcheck, e ora andiamo a gustare un'altra traccia tratta dal nuovo album di Leo Sidran, figlio di Ben Sidran. Mucho Leo è il titolo di questo album, che ha realizzato da solo nel suo studio casalingo. Lo abbiamo raccontato, Leo è oggi un producer affermato di commercial, praticamente realizza le colonne sonore, i jingle pubblicitari per alcune delle case, alcune delle multinazionali più importanti negli Stati Uniti, e naturalmente continua a fare tournée con il padre, continua a produrre dischi, e nell'arco di un anno ha realizzato questo Mucho Leo. Il brano è molto carino, ha suonato tutto lui, si intitola After the Damage is Done. Leo Sidran al Soundcheck di Radio 24, e poi l'informazione. What a night, what a ride, what on earth did we decide? I guess we'll find out what's begun after the damage is done. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Did you hit on straight? Classico di Louis Armstrong intitolato Got Back Blues per la versione di Dr. John, con la partecipazione di un altro ragazzaccio di New Orleans, il meraviglioso trombettista Nicholas Payton, qui al Soundcheck di Radio 24, in un momento pieno di musica per il nostro paese. Lo abbiamo già raccontato col nostro Francesco Tromba, sono in arrivo grandissimi artisti, due festival, il Festival Jazz di Bologna, ma poi il Festival Jazz di Roma, che parte esattamente quando, Francesco? Il primo concerto sarà il 14 novembre, ma concerto prima ufficiale. Sì. Ma prima ci sarà una conferenza concerto alla quale parteciperai anche tu, mi sa? Sì, dell'11 novembre. Sì, alle 19. Pensa che emozione, mi troverò per la prima volta a fare da relatore nell'aula magna della LUIS qui a Roma. Addirittura, sei arrivato in alto. sono arrivato in alto. Sì, perché il tema del Jazz Festival di Roma si rifà un po' allo swing, si rifà sicuramente allo swing, al piacere di ascoltare lo swing, e soprattutto le emozioni positive che lo swing e la musica ci possono regalare in un momento di crisi. E infatti nel comunicato stampa si parla della crisi del 1929, il crollo di Wall Street, quando i nostri nonni ballavano lo swing. Sì, si fa un parallelo appunto fra il periodo del New Deal, quindi del nuovo corso dopo la crisi economica del 29, si cerca appunto di mettere in rapporto quello che poi è stata comunque la vena creativa anche di quegli anni, ricordiamolo, perché dopo gli anni 30 la funzione anche potremmo dire terapeutica anche della musica ha avuto la musica, soprattutto il jazz e lo swing. hanno contribuito a far uscire dalla crisi. Dalla crisi anche, e poi a migliorare l'economia. Speriamo, sì, che sia così anche quest'anno con il Roma Jazz Festival. Quindi ci sarà quest'anteprima l'11 di novembre nell'Aula Magna della Luis con una conferenza e poi il concerto con il Maxionata Trio, con Maxionata al tenore, Alberto Gurrisi all'organo Hammond, Amedeo Ariano alla batteria e chi vi sta parlando come vocalist. Allora, vi aspettiamo alla Luis. Mamma sì, mia. Alle 19. Torno in università. Dopo quanti anni? Non lo posso dire. Allora, invece veniamo a una band che sarà protagonista al Roma Jazz Festival, una band italiana, album nuovo per loro, per Swing Life Society. L'album si intitola Swing Circus e qui questi signori accompagnano la voce di Anna Williams in questa versione contemporanea di un classico di Joe Primrose, proprio del periodo Dixieland e New Orleans addirittura, St. James Infirmary, qui al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. E abbiamo più o meno una decina di minuti a disposizione qui su Radio 24 per la nostra prova del suono con Giorgio Telesforo e il nostro Francesco Tromba. Vi anticipo che la seconda parte, quella che inizierà alle 19.15 più jazz, avrà come ospite un signore che è un ambasciatore. Ecco, non so se forse mi devo mettere in giacca e cravatta per incontrare l'ambasciatore in Indonesia, Federico Failla, ambasciatore italiano in Indonesia, incontrato qualche settimana fa in occasione di questo bellissimo concerto che ho fatto in un bel teatro organizzato dall'Istituto di Cultura Italiana e quindi con la partnership dell'ambasciata italiana, e naturalmente con l'ambasciatore, che ho scoperto essere un formidabile appassionato di musica, parleremo di arte e di altro. Non so, ma magari mi aiuterai a capire che domande proporre all'ambasciatore italiano in Indonesia, Federico Failla. Volentieri. Allora, Francesco, ci sono altri concerti? Ci spostiamo a Parigi o no? Sì, il 3 e il 4 di novembre tu sarai a Parigi con... Dappertutto praticamente, sì. È periodo di concerti anche per me, come avrai notato, ho avuto il buon senso di non fare concerti di sabato e di domenica perché sono in radio. Almeno questo, vai. Il 3 novembre a Courbevoie, che è una zona di Parigi, al Cabaret Jazz Club. Sì, credo che si chiami così il club. E poi il 4 invece sono in un club, sì, storico, che è il Sunset Sunside, questo con Sound Zero, con Domenico Sanna al pianoforte, Joseph Bassi al contrabbasso e Roberto Pistolesi alla batteria. Ci facciamo questa scampagnata parigina. Che altro c'è a Parigi da seguire? E qualche giorno prima di te ci sarà anche Taylor McFerrin, quindi chissà se ce la faccio, riesco a vedere anche... No, vabbè, ma lo vedo il 6 a Roma, dai. E il trio di John Scott Field sarà il 29 al New Morning, e invece il quartetto di Lou Donaldson al Sunside il 30 e il 31, e infine il 30 ci sarà il Pitchfork Festival con James Blake, il Belle Sebastian, Mogwai Fortet, quindi diciamo un po' un misto di musica elettronica. E quindi ancora una volta Parigi dimostra tutta la sua passione per la musica. Sì, devo dire che è un gran periodo. Gran bel periodo per l'Europa. Tutti, sì, gli americani sono in Europa. In Europa. Ma chissà, forse per motivi climatici. Sì, in autunno si suona, sta bene. Si suona in Europa. Allora, c'è un disco nuovo, si intitola Tudo, e ha come protagonista la bella voce educata di Bebeu Gilberto, quindi stiamo parlando di sound tipicamente brasiliano per questa signora, ormai non è più una ragazzina, ha venduto tantissimi dischi, Bebeu Gilberto, con sonorità un po' lounge, mi fai passare questo termine? Sì. Non mi è mai mai piaciuto questo termine, però Bebeo Gilberto si è dedicata proprio a questo tipo di suono, mettere insieme la sua vena brasiliana con le ritmiche contemporanee e le atmosfere di oggi. Allora, Bebeo Gilberto, Tudo, il brano che ho scelto per voi è una composizione di Seu Jorge, eccellente cantante e chitarrista, che partecipa proprio a questa composizione intitolata Novas Ideas. Qui è Bebeo Gilberto al soundcheck di Radio 24. Às vezes canta e não sabe quem escreveu a canção, mas fica sempre a mensagem dessas ideias. Siamo in chiusura, quindi vi diamo appuntamento alle 19:15, ospite l'ambasciatore italiano in Indonesia Federico Failla per il soundcheck nella parte più jazz. Ancora un po' di musica, abbiamo annunciato prima il concerto di Stanley Clarke al Blue Note di Milano, e allora mi sembra il caso di proporre ancora una volta una traccia da questo album molto divertente e piacevole intitolato Up. Stanley Clarke incontra talenti strepitosi, anche qualche veterano, per realizzare questa versione di Brazilian Love Affair. Quindi abbiamo ascoltato Bebeo Gilberto, mi sembrava giusto continuare con il sound brasiliano anche se in chiave più funk e R&B per Stanley Clarke, per tributare tutto il suo affetto e la sua amicizia con George Duke. Stanley Clarke chiude il soundcheck con Brazilian Love Affair, grazie a Francesco Tromba. Noi ci risentiamo più tardi, mi dispiace ma tu non puoi venire con me dall'ambasciatore, è troppo formale per te, non hai la giacca e la cravatta, invece devo indossare giacca e cravatta. Non sono abbastanza importante per... No, non è vero. Va bene, ci sentiamo più tardi, sempre qui su Radio 24. Soundcheck, il suono della musica, di DJ Telesforo. Di nuovo in contatto con il soundcheck, la prova del suono di Radio 24, e se spesso abbiamo avuto nostri ospiti, formidabili musicisti, arrangiatori, compositori, artisti, oggi invece sono felicissimo di avere come ospite alla prova del suono un appassionato di musica, un appassionato di arte. Sto per presentarvi l'ambasciatore italiano in Indonesia, il dottor Federico Failla. È un grande piacere ospitarla, intanto vorrei ringraziarla per la bellissima ospitalità che mi avete regalato durante il concerto fatto a Jakarta, lì da voi in Indonesia. È stata una bellissima esperienza, sono rimasto molto colpito dalla passione del pubblico indonesiano nei confronti della musica e degli artisti italiani. Come mai? Come siete riusciti a far innamorare gli indonesiani dell'arte e della cultura italiana? L'Indonesia è un paese che conosce l'Italia bene, magari non la conosce fino in fondo, magari conosce solo alcuni aspetti, ma è un paese che ha un'attrazione verso l'Italia molto molto forte. È un paese molto giovane, è un paese, come avrà visto durante il concerto, in cui la popolazione giovanile è la maggioranza, e è una popolazione giovanile molto appassionata di jazz. Qui c'è un importante festival. Ci sono parecchi artisti locali che sono di ottimo livello, e quindi la passione verso il jazz e la passione verso l'Italia si sono combinate in questo caso. Tra l'altro, appunto, il concerto è caduto in un periodo in cui abbiamo fatto anche un festival italiano durante appunto il mese di ottobre, si sta per concludere, in cui abbiamo presentato la moda, anche l'espresso italiano come simbolo di un modo di vivere italiano, della qualità della vita italiana. Anche in altre occasioni abbiamo visto che la popolazione indonesiana, anche nelle sue fasce più giovani, è molto appassionata di quello che succede in Italia. E questo per noi è molto importante, perché non vorremmo che passasse il concetto: l'Italia è un grande paese che ha prodotto una grande cultura, ma che adesso non produce più nulla. Invece, appunto, il concerto come quello che è stato tenuto appunto dal suo quartetto è stato una riconferma che c'è un'Italia culturale molto vivace, molto vitale e che può parlare a tutte le popolazioni e tutte le fasce di età che si trovano in giro per il mondo. Ecco, lei ha lavorato, ecco, da ambasciatore rappresentando il nostro paese tantissimo nei paesi asiatici. Qual è l'attrazione che provano gli asiatici nei confronti dell'Italia e della cultura italiana? Ma l'Italia è un punto di riferimento per tante cose, per la moda, per il cibo, per l'arredamento, per la qualità della vita, per anche dei gioielli tecnologici quali sono per esempio le macchine sportive o le moto o la stessa Vespa, che qui in Indonesia è riscuote molto successo. Direi che è veramente un modello di qualità della vita. Noi dovremmo sfruttare molto di più questa capacità che abbiamo di imporre dei modelli culturali e quindi farci conoscere meglio, perché facendo conoscere meglio il paese ne beneficeremmo tutti, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista culturale, ne beneficeremmo proprio delle relazioni tra quelle che si chiamano people to people, che sono poi la cosa per cui noi lavoriamo. Le relazioni tra i governi sono importanti, ma ancora più importanti sono le relazioni tra la gente. Far conoscere meglio l'Italia agli indonesiani è l'obiettivo che noi ci proponiamo. Che cosa gli italiani possono apprezzare invece del carattere degli indonesiani? Che cosa possiamo imparare da loro? Ma l'enorme pazienza, devo dire. Se lei è stato a Jakarta avrà visto che c'è un traffico molto intenso, ma nessuno si lamenta. Tra l'altro gli indonesiani sono un popolo molto cordiale, molto aperto verso gli stranieri. Direi che c'è una saggezza ancestrale, la famosa saggezza orientale, da cui forse potremmo imparare. Però c'è anche un'altra cosa: c'è il dinamismo, c'è la volontà di crescere, c'è la volontà di affermarsi. Non ci si lamenta e basta. Quando uno c'ha delle difficoltà cerca di risolverle. Ecco, forse questa è una cosa che potremmo anche riscoprire noi. Allora, ambasciatore, io direi di andare alla musica. Lei è un appassionato di jazz, quindi facciamo un salto nel 1961, tra l'altro l'anno della mia nascita, e le faccio ascoltare, così come ai nostri radioascoltatori, l'esecuzione di John Hendrix, Dave Lambert e Annie Ross, un trio vocale strepitoso, in questa versione di Come On Home, brano scritto da Horace Silver, qui al Soundcheck di Radio 24. Come on home and be welcome to stay. Baby, tell me you're coming home. Living alone is so lonely. I never should ever have run you away. Soundcheck, il suono della musica. Nostro ospite al Soundcheck di Radio 24, l'ambasciatore Federico Failla, in questo momento in Indonesia, esattamente a Jakarta, città con grandissimo traffico, un livello di traffico spaventoso e anche tantissime zanzare, ho notato. Non hanno risolto il problema delle zanzare, sono molto attenti alla cultura italiana, però il problema delle zanzare non lo hanno risolto, ambasciatore. Esiste, sì, sappiamo benissimo, siamo delle vittime noi. Senta, ma da dove viene la sua passione per la musica? Ma diciamo che io sono appassionato di musica, appassionato di arte, come credo molte altre persone. Personalmente perché, insomma, molto banalmente credo che serva a vivere meglio, insomma. Professionalmente perché credo che l'arte italiana, la cultura, sia uno straordinario mezzo per promuovere il nostro paese. È un settore in cui non dobbiamo spiegare perché l'Italia fa cultura, tutti sanno che l'Italia fa cultura, che l'Italia ha prodotto cultura e l'Italia è una superpotenza culturale, basta pensare al patrimonio artistico che ci troviamo. Dovremmo noi utilizzare la cultura per far conoscere meglio l'Italia nel suo insieme. Quello che noi cerchiamo di fare, che stiamo cercando di fare in Indonesia e che ovviamente facciamo anche in tanti altri paesi, non è tanto promuovere il singolo artista o i singoli gruppi e così via. Quello che cerchiamo di fare, appunto, è di promuovere un'immagine paese che sia corrispondente alla realtà, che faccia vedere come l'Italia è un paese molto vivace, che produce ancora delle ottime cose dal punto di vista culturale, e con questo affermare una immagine del paese molto positiva. Lei mi ha detto che si riescono a organizzare degli eventi anche importanti, per esempio in Indonesia, perché si ritrova la partnership di imprenditori privati. Esattamente, noi cerchiamo di organizzare molte attività, ma ovviamente i fondi non sono mai abbastanza, quindi ci appoggiamo spesso su imprenditori privati, sia italiani ma anche indonesiani, che sono disposti a sponsorizzare le nostre iniziative. E questo, voglio dire, è la chiave per affermarsi in questi paesi. La collaborazione tra le istituzioni, le imprese, le università è fondamentale. Vedendo dal punto di vista italiano, è quello che in gergo si definisce fare sistema, mettere in coordinamento tutti i pezzi che compongono l'Italia, appunto per non a proprio vantaggio, ma a vantaggio del paese, che poi indirettamente ha un vantaggio per tutti quelli che ci partecipano. Ecco, noi siamo, ho visitato l'Indonesia, ho avuto la possibilità, facendo il mio lavoro, di girare in lungo e in largo per la Cina, in Giappone, e ho trovato questi paesi modernissimi, molto più moderni della nostra Italia, probabilmente proprio perché si dà più spazio alle nuove leve, ai giovani, si sta molto attenti al carattere e agli impulsi vitali degli adolescenti e dei ragazzi. Sì, assolutamente, come dicevo prima, sono paesi in cui c'è un'energia vitale molto forte, in cui si tenta di bilanciare il nuovo e il vecchio, non fossilizzandosi su quello che già esiste, ma anche cercando di andare avanti, cercando di vedere che cosa si può creare e come si può migliorare la qualità della vita delle popolazioni che partono talvolta da livelli, insomma, in cui il miglioramento della qualità della vita è necessario. Allora, conoscendo la sua passione per il jazz, ho fatto una scelta che mi sembra importante e adeguata. Le farei ascoltare Miles Davis, qui da una registrazione storica per Columbia Records, forse il disco più venduto della storia del jazz. Stiamo parlando di Kind of Blue, realizzato nel 1959, in questa versione di So What, che probabilmente non ascolteremo per intero perché la versione originale dura oltre i 9 minuti. Ci sono dei grandi maestri che hanno fatto la storia del jazz: Bill Evans al pianoforte, John Coltrane, Julian Conobal Adderley al sax contralto, Jimmy Cobb alla batteria, Paul Chambers al contrabbasso. Questo è il soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Each wonderful night Indonesia. La voce di Ella Fitzgerald in questa versione di Night in Tunisia, un brano del periodo bebop scritto da Dizzy Gillespie, in questo appuntamento del soundcheck di Radio 24, la nostra prova del suono che ha avuto come graditissimo ospite l'ambasciatore Federico Failla, che tornerà in Indonesia, a Jakarta. Io le auguro veramente di continuare questo lavoro che sta facendo per promuovere l'arte e la cultura italiana lì in Asia. Credo che sia un momento molto affascinante, perché insomma si intravedono tante cose belle, tanta positività c'è nell'aria. Sì, grazie mille. Sì, ovviamente io ringrazio anche voi di essere venuti in Indonesia e vorrei dire che continueremo nel nostro lavoro, che nel 2015 avremo altri artisti sia di musica jazz sia di musica classica, e appunto per far conoscere ancora di più il nostro paese, in un paese che in fondo ha 240 milioni di abitanti e che quindi è uno dei paesi più grandi del nostro mondo. Ma lei ogni tanto torna in Italia, no? Perché ha famiglia, parenti sicuramente. Come vive l'Italia? Io la vivo in vacanza, quindi la vivo molto bene, perché l'Italia è un paese splendido, da quel punto di vista non mi lamento assolutamente. Però ovviamente sono conscio che questo è un momento difficile per il nostro paese, ma diciamo per l'intero continente, non sono solo problemi italiani, sono però fiducioso e ce la faremo, perché l'Europa è una grande realtà e non può non risollevarsi. Bene, io spero di ritrovarmi un giorno con lei a Jakarta, in Indonesia, però in vacanza, ambasciatore. Vorrei venire perché non sono riuscito a vedere nulla. Quando si gira per concerti, si visitano hotel, teatri, i tragitti, ho vissuto il traffico, le zanzare, ho mangiato molto bene e io la ringrazio per essere stato qui con noi e la saluto, e saluto anche i radioascoltatori di Radio 24, dando appuntamento al prossimo weekend con il doppio appuntamento, quello del sabato a partire dalle 19:15, poi la domenica doppio appuntamento dalle 15:30 e poi alle 19:15, e la saluto con Herbie Hancock in un classico del suo repertorio intitolato Dolphin Dance 1965, con Freddie Hubbard alla tromba, George Coleman al tenore, Ron Carter al contrabbasso e un giovanissimo meraviglioso Tony Williams alla batteria. Grazie ancora all'ambasciatore Federico Failla, buon ritorno a Jakarta, in bocca al lupo per il suo lavoro. Grazie e buon lavoro.